Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ci sono alcuni punti di grave crisi ancora aperti nei paesi colpiti dai fortunali di luglio in Friuli e per la liquidazione dei danni da parte delle assicurazioni i tempi sono lunghi. L'ospedale materno infantile Burlo Garofalo di Trieste è ancora isolato per un blackout delle linee telefoniche. Funziona solo il centralino per le emergenze. Legambiente e WWF del Friuli Venezia Giulia scrivono ai parlamentari regionali per scongiurare la costruzione dell'acciaieria Danieli Metinvest a San Giorgio di Nogaro. Speleoterapia e forestoterapia sono le tecniche innovative adottate a Fusine per aiutare alcuni ragazzi con problemi cronici respiratori, in particolare l'asma. Qual è l'impatto della rinaturalizzazione di aree montane marginali sulla biodiversità e sulla cattura e stoccaggio del carbonio? Se ne occupa l'Università di Udine. Prima amichevole a Monfalcone per la pallacanestro Trieste, che contro un team austriaco ha fatto vedere ciò che già funziona e quanto si deve ancora migliorare. Alle 12.31, ancora un cordiale buongiorno da Daniele Lettige e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Mentre alcune aziende sono ancora in grave difficoltà dopo i fortunali di luglio, rimangono ancora tempi lunghi per il ristoro dei danni da parte delle compagnie di assicurazione. Stiamo al servizio. I tempi sono ancora lunghi per le pratiche assicurative in molti casi nelle zone più colpite dal maltempo di luglio. Assicurazioni per le quali, come ci ha fatto sapere l'ANIA, l'associazione che le riunisce, la copertura rimane valida anche con lo stato di emergenza decretato dal governo lunedì. Il problema è che i periti talvolta non si sono ancora visti. Aspetta da oltre un mese Giulio Musanghini, allevatore, che si è ritrovato una parte della stalla inagibile a causa dei buchi provocati dalla grandine sul tetto in Eternit. Stima dei danni per 250-300 mila euro, e solo grazie alla solidarietà va avanti. 25 delle 100 vacche di sua proprietà sono state trasferite presso colleghi allevatori che gli hanno messo a disposizione spazi coperti. Ancora in grossa difficoltà una storica azienda industriale di Mortegliano, l'Alpea, che produce pannelli semilavorati per il settore del legno arredo. 24 dipendenti a ogni pioggia devono spalare e asciugare l'acqua a terra. L'80% del tetto è permeabile, 10.000 metri quadri che vanno ancora coperti con teli e poi rifatti. Danni per 5 milioni almeno. Il fatturato è di 6 milioni. Il giovane Tommaso Pelos, socio e amministratore dell'azienda, si augura velocità nell'erogazione dei pagamenti sia da parte assicurativa sia da parte pubblica. I tempi sono fondamentali per assicurare la continuità dell'impresa. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a causa delle conseguenze del maltempo di lunedì e di ieri, il Comune di Trieste informa che nella giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, la risiera di San Sabba resterà ancora chiusa al pubblico. Siamo alla pagina del tempo, cielo in prevalenza coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste, Udine e Gorizia 17 gradi e mezzo, a Trieste mare mosso con temperature di 25 gradi, Pordenone 18 gradi, Tolmezzo 15 gradi e 5 decimi, Tarvisio 13 gradi e mezzo, Forni di Sopra 13, Sappada 12 gradi e 5 decimi, Piancavallo 10 gradi, in quota sullo Zoncolan 7 gradi e sull'Ussari 6, tornando sulla costa a grado 18, Lignano 18 gradi e mezzo, con temperatura del mare a 25 gradi. Queste le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte della giornata cielo in prevalenza coperto e saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, più probabili ad est. Tempo migliore tra pomeriggio e sera. Sulla costa soffierà bora moderata con possibili raffiche sostenute a Trieste. Per domani previsione ancora un po' incerta. Al mattino sarà probabile cielo variabile o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio sarà possibile maggiore variabilità e anche qualche pioggia o qualche locale rovescio. È ancora in corso all'ospedale materno infantile Burlo di Trieste il blackout delle linee telefoniche. Il problema iniziato ieri pomeriggio non è ancora stato risolto. Unico collegamento con l'esterno resta quello del centralino, che però si consiglia di usare solo per necessità reali. Pioggia e maltempo hanno provocato un blackout telefonico all'ospedale materno infantile Burlo di Trieste. Il problema, iniziato ieri, è tuttora presente. Tecnici al lavoro per ripristinare la linea. L'ospedale prega l'utenza di chiamare l'unico numero attivo, quello del centralino, solo per effettiva necessità, perché le chiamate vengono dirottate sui cellulari dei singoli medici in turno per rispondere alle varie esigenze. Meglio è scrivere una mail all'indirizzo degli specialisti, che è facilmente reperibile nel sito internet dell'ospedale. I professionisti dei vari reparti risponderanno appena possibile. Sulla risoluzione del problema, fa sapere l'ospedale, non si conoscono tempi certi, poiché la criticità dipende dalla Telecom. Ad ogni modo, per le prenotazioni, come sempre, si fa riferimento al CUP regionale e per le emergenze, anche quelle pediatriche, al 112 regionale. Fortunatamente non si riscontrano altri problemi legati al maltempo per l'ospedale cittadino. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 56 operatori della polizia ferroviaria, coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste, sono stati impegnati sull'intero territorio della regione nella 10ª giornata di controlli straordinari del 2023, denominata Stazioni Sicure. 20 gli scali ferroviari regionali controllati dagli operatori della Polfer nell'arco delle 24 ore e 731 le persone sottoposte a controllo. La stazione di Trieste Centrale è stata interessata da uno straordinario flusso di passeggeri dovuto agli arrivi e partenze contemporanee di turisti che dovevano imbarcarsi sulle navi da crociera attraccate in porto o dalle stesse erano sbarcati. Un giovane uomo è stato soccorso questa mattina dal personale sanitario a Trieste per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro. Mentre stava scaricando materiali da un camion, per caso è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato urtato da una vettura e ha riportato un trauma ad una gamba. Gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Trieste. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo e l'ha trasportato all'ospedale di Catinara, fortunatamente in codice verde. Lega Ambiente e WWF del Friuli Venezia Giulia hanno inviato ai parlamentari regionali una lettera per sollecitare un loro intervento presso il governo e il Parlamento contro la ratifica in legge che istituisce un commissario straordinario di governo che prenda in mano e gestisca tutto l'iter approvativo per l'insediamento dell'acciaieria Metinvest Danieli nell'area industriale di San Giorgio di Nogaro. Dopo aver riassunto tutte le ragioni della loro contrarietà all'impianto, Legambiente e WWF scrivono che, si legge testualmente, il governo dovrebbe dire all'investitore della joint venture italo-ucraina che in Italia esiste già il sito che cercate per il vostro mega impianto. Trattasi del polo siderurgico più grande d'Europa e tra i più grandi esistenti al mondo, ovvero Taranto. Quella è la scelta logica da fare, si legge ancora, logica da un punto di vista ambientale, logica da un punto di vista industriale di tutela dei lavoratori, senza dimenticare Piombino in crisi da 10 anni o Novi Ligure, anche lì con migliaia di lavoratori in cassa integrazione. È evidente che 800.000 lavoratori, tanti ne sono previsti per San Giorgio di Nogaro, non si potranno trovare in Friuli Venezia Giulia, mentre in altri siti in crisi esistono già maestranze adatte per numero e professionalità oggi in cassa integrazione pagata da noi cittadini. In chiusura della lettera si legge anche che il ricorso al commissario straordinario sarebbe un grave vulnus alla democrazia e al rispetto delle normative vigenti. 21ª edizione del campus respiratorio a Fusine organizzato dalla parrocchia di Lignano. Speleoterapia e forestoterapia, le tecniche innovative adottate per aiutare i ragazzi con problemi cronici respiratori, in particolare l'asma. Il servizio. Le malattie croniche delle vie respiratorie curate con la speleoterapia. Il campus respiratorio organizzato dalla parrocchia di Lignano fa scoprire le miniere di Raibi, la cave del Predil, a gruppi di ragazzi asmatici che trovano beneficio con la semplice permanenza per un po' più di un'ora all'interno della miniera dismessa dal 1991, da dove si estraevano piombo e zinco e oggi divenuta sito turistico. Durante la settimana di campus i ragazzi possono praticare anche la forestoterapia, ovvero l'inalazione di essenze arboree presenti in montagna. Anche questa un tipo di cura che dà risultati concreti. Abbiamo sentito Mario Canciani, responsabile sanitario del campus respiratorio. Canciani, qual è lo scopo di questo campus respiratorio? Lo scopo principale è di rendere i bambini autonomi, cioè il self-management, cioè arrangiarsi da soli, riconoscere i sintomi, fare la terapia adatta e fare l'attività fisica adatta. In tutto in un ambiente eccezionale come questo, dove non ci sono inquinanti, dove i pollini sono molto limitati e diciamo tutto questo contribuisce a rendere ottimo il soggiorno. All'interno della miniera di Raibl, dove c'è un'alternanza fra la temperatura e soprattutto un beneficio importante per i ragazzi. Esatto, c'è una differenza di 30 gradi tra l'ambiente esterno e i bronchi, la temperatura dei bronchi che fa un risucchio delle secrezioni, non ci sono allergeni, quindi acari, pollini, l'aria è saturata al 90% dall'acqua. e quindi tutto questo è una miscela che rende il bronco meno infiammato, come abbiamo dimostrato con degli studi molto sottili, molto fini, all'avanguardia. Tarvisio, Cava del Predil, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Valutare a livello europeo l'impatto della rinaturalizzazione di aree montane e marginali sulla biodiversità e sulla cattura e stoccaggio del carbonio è l'obiettivo del progetto europeo Wildcard, finanziato quasi interamente dall'Unione Europea, guidato dall'Università di Udine, che partirà a gennaio 2024. A coordinarlo è Giorgio Alberti, professore di selvicoltura e assestamento forestale del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Ateneo Friulano. Gli abbiamo chiesto di spiegarci quali sono gli obiettivi del progetto. Il progetto Wildcard vuole quantificare l'impatto di processi di rinaturalizzazione, come l'avanzamento della foresta su terreni agricoli abbandonati o l'assenza di gestione forestale, sugli stock di carbonio e sulla biodiversità. Dove sarà effettuato in regione? Dove saranno fatte i campionamenti o insomma le cose di cui si compone questo progetto? Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, noi andremo a studiare i processi di ricolonizzazione di terreni agricoli abbandonati, soprattutto nelle valli del Torre e del Natisone, oltre che a quantificare gli effetti su carbonio e biodiversità nelle foreste vetuste distribuite all'interno del territorio regionale. E concretamente come vengono effettuati questi studi? Quali sono le procedure? Il progetto prevede di lavorare a diverse scale, sia spaziali che temporali, combinando sia misure in campo delle diversi stock di carbonio nelle diverse componenti dell'ecosistema, ma anche attraverso tecniche di telerilevamento basate sull'uso di satelliti e di droni. Quali sono i soggetti che partecipano alla ricerca? Abbiamo 16 partner europei distribuiti un po' su tutto il territorio europeo, con istituti anche piuttosto importanti come l'ETH di Zurigo, l'Università Tecnica di Monaco, l'Università di Wageningen in Olanda. Quindi si tratta di un progetto coordinato a livello europeo che punta ad avere risultati relativi a tutta Europa. Sì, il progetto è coordinato dall'Università di Udine e grazie appunto a questa collaborazione multidisciplinare con 16 partner stranieri mira a quantificare questi processi a scala europea. Le ondate di calore che sempre più frequentemente colpiscono il mar Mediterraneo sono la causa principale del rapido declino della principale specie coralligena e unico corallo duro del nostro golfo, la madrepora a cuscino. I censimenti svolti in questi giorni dai ricercatori del WWF di Trieste hanno evidenziato una situazione ormai drammatica. Circa il 70% delle colonie censite a Miramare è vittima di sbiancamento parziale o totale, un fenomeno che la letteratura scientifica addebita al riscaldamento del mare, effetto della crisi climatica e alle sempre più frequenti ondate di calore. Come evidenziato il recente rapporto di ARPA del Friuli Venezia Giulia Segnali dal Clima, il 2022 è stato un annus horribilis per l'Adriatico, con una temperatura media annua superiore di un grado rispetto all'ultimo ventennio e con anomalie termiche maggiori di 5 gradi centigradi per più di 50 giorni in ampie zone del Golfo. E le elevate temperature che si stanno registrando in Golfo quest'estate preannunciano scenari altrettanto preoccupanti. In questi giorni la temperatura del mare raggiunto i 26-27 gradi al fondo, considerati limite soglia per lo scatenarsi dei fenomeni di sbiancamento. Secondo i dati contenuti nel 28° rapporto annuale sul riciclo di carta e cartone in Italia di Comieco, nel 2022 il Friuli Venezia Giulia ha raccolto e avviato correttamente a riciclo più di 70.000 tonnellate di carta e cartone, su un livello di fatto invariato rispetto all'anno precedente, meno 0,5%. Pur a fronte di una lieve riduzione della raccolta, poco più di 300 tonnellate, i cittadini friulani dimostrano un impegno costante nel fare la raccolta differenziata, diventata ormai una pratica consolidata, come conferma il pro capite regionale che sfiora i 59 kg per abitante, afferma Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. Un'attenzione confermata anche dal continuo miglioramento del livello di intercettazione della frazione cellulosica, che è arrivato al 12,5% sul totale dei rifiuti urbani, calati di oltre 3 punti percentuale. In Friuli Venezia Giulia il Consorzio Nazionale del Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica ha gestito direttamente quasi 31.000 tonnellate, pari al 44% della raccolta, riconoscendo ai 214 comuni convenzionati corrispettivi economici per oltre 3,7 milioni di euro. La cultura è già conto alla rovescia per l'edizione 2023 di Pordenone Legge, in programma dal 13 al 17 settembre. Giovani sempre più protagonisti a Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori che dal 13 al 17 settembre animerà il capoluogo del Friuli occidentale. Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 26 anni possono prenotare in questi giorni un posto d'onore alla serata inaugurale del festival, l'incontro con lo scrittore ucraino Andrei Kurkov. Il presidente di Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti. Da tempo consideriamo fondamentale suggellare un patto generazionale in questa città che riguarda l'istruzione, la formazione, la scuola, l'industria. E quindi come nell'Assemblea Generale Confindustria abbiamo invitato 700 ragazze come ospiti d'onore, questa volta ospiti d'onore di quella manifestazione accanto alle altre autorità, noi consideriamo autorità questi 200 ragazzi che saranno ospiti d'onore della nostra manifestazione e poi saranno anche ospiti di tutti gli altri eventi di Pordenone Legge. Una grande festa del libro, della cultura e della libertà. Giovani protagonisti anche sul campo, nell'operatività quotidiana del festival. Quest'anno saranno 213 gli angeli di Pordenone Legge con le inconfondibili magliette gialle. 570 gli autori e le autrici in arrivo in città, 334 gli incontri in programma, 63 le anteprime. La direttrice di Pordenone Legge, Michela Zin. Dopo due anni di Covid e l'anno scorso un po' così ancora zoppicante, quest'anno si torna a quello che era il festival pre-pandemia e quindi speriamo di vedere tanta gente. Rivedremo probabilmente le code, perché la novità di quest'anno è che ci sono le prenotazioni con la campagna Amici, ma tutto il resto è chi primo arriva bene alloggia. Dal lunedì 4 alle 9 comincia la campagna, quella con il programma in mano, nel senso che ormai il programma è fuori, quindi c'è la possibilità di aiutarci a organizzare il festival dando un piccolo contributo e in cambio potendo prenotare gli incontri di proprio interesse. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Spilimbergo intanto è il giorno della Summer School per un progetto rivolto a insegnanti e bibliotecari per la promozione della lettura tra i ragazzi. Un'intera giornata di formazione rivolta a insegnanti, bibliotecari, educatori e amministratori locali. È in corso a Spilimbergo la terza edizione della scuola estiva di Leggiamo 018, un appuntamento per parlare di libri e promozione attiva della lettura tra i più giovani, per condividere buone pratiche e aggiornarsi sulle novità del mondo della lettura, con relatori esperti, quattro percorsi formativi e un focus dedicato al tema stare bene. Leggiamo 018, il progetto di promozione della lettura della regione Friuli Venezia Giulia, attivo dal 2015. Roberto Del Grande è del Consorzio Culturale del Monfalconese che coordina il progetto. In questo 2023 toccheremo quasi 60.000 ragazzi coinvolti nelle attività e una formazione che arriva a quasi 1.000 addetti ai lavori. In particolare abbiamo un progetto che si chiama Leggiamo a scuola, che coinvolge ben la metà delle scuole del territorio, sia dalle primarie fino alle secondarie di secondo grado. Marco Dallari è uno dei relatori, scrittore e pedagogista. La narrazione può essere un'esperienza cognitiva, come purtroppo viene considerata nella scuola media e media superiore, nella secondaria, oppure può essere un'esperienza di bellezza. Scoprire che la bellezza e il piacere non è solo nelle cose fisiche ma anche negli apparati simbolici dipende però dalla qualità della mediazione, di farne un'esperienza di piacere. Spero che un'iniziativa come questa serva anche a incrementare questa sensibilità e questa coscienza. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, amichevole più che estiva per la Pallacanestro Trieste, che a Monfalcone ha incontrato una compagine austriaca. Un'occasione per vedere le cose che già funzionano in squadra e i correttivi da apportare. C'è sempre tanta curiosità intorno alle amichevoli estive in tutti gli sport di squadra. Sono l'occasione per vedere all'opera i nuovi giocatori, che non sono pochi nel caso della Pallacanestro Trieste. E la stessa curiosità mista a un po' di ansia che hanno dirigenti e tecnici quando provano a capire come gira la nuova squadra. Quello di Monfalcone non era un test probante, perché l'avversario, gli austriaci del Kapfenberg Bulls, non è certo di livello eccelso. L'impronta del neo allenatore Christian non si è ancora vista, un po' perché la preparazione è appena iniziata, un po' per le assenze di Brooks e Bossi e un po' per la condizione non ottimale di De Angeli e Ferrero. Trieste ha faticato non poco sul piano fisico e su quello tecnico. Gli austriaci sono sempre rimasti vicini alla formazione biancorossa, senza però mai riuscire ad agganciarla. Alla fine del terzo quarto c'erano 10 lunghezze fra le due squadre, ma l'ultimo parziale è stato all'insegna dell'equilibrio. 78-71 il punteggio finale, dopo una serie di tentativi di rimonta bloccati dalle superiori qualità tecniche di alcuni giocatori di Trieste. Ampio spazio per i giocatori più giovani, buona la prestazione di Figlioi e Chiandussi, due dei nuovi arrivi di questa stagione. Il match era valido per la 20ª edizione della Basket Summer League, organizzata dall'associazione Che Spettacolo. Ma è solo l'antipasto delle amichevoli estive. Domani sarà la volta della APU Old Wild West Udine, al Memorial Paietta del Carnera. Venerdì e sabato a Lignano il Memorial Bortoluzzi con Gesteco Cividale e Pallacanestro Trieste. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo ai temi della cultura alle 18.30 allo studio Tommaseo di Trieste. In occasione della 6ª edizione della festa segreta per Leon Orfini, l'associazione Trieste Contemporanea ricorderà l'artista cresciuta e formatasi a Trieste. Nell'occasione verrà presentato il fondo librario documentario che Corrado Premuda, scrittore e giornalista triestino precocemente scomparso l'estate scorsa, aveva raccolto nel tempo, avendo dedicato molta parte dei suoi studi e delle sue ricerche all'artista e al personaggio Leon Orfini. Il fratello di Corrado, Massimo Premuda, spiega in questa intervista chi era Leon Orfini e che cosa comprende il fondo donato alla biblioteca dall'associazione. Leon Orfini è stata un'artista importantissima, nata a Buenos Aires, ma l'infanzia e la giovinezza le ha passate a Trieste, vivendo proprio questo clima così interessante di inizio secolo. È stata pittrice, scenografa, costumista, scrittrice, illustratrice, disegnatrice e appunto ha avuto grande successo a Parigi, che è stata la sua seconda casa, e una decina d'anni fa il Museo Revoltella ha dedicato una grande antologica con moltissimi quadri, ed è stata una delle prime occasioni per andare a rileggere, a riscoprire Leon Orfini oltre il personaggio, dunque da un punto di vista anche critico, completamente nuovo. Suo fratello ha raccolto numerosi volumi, documenti relativi a Leon Orfini che saranno donati alla Biblioteca Trieste Contemporanea. Quali sono questi documenti e quali sono questi libri? Che cosa contiene questo archivio? Il fondo che viene donato alla Biblioteca di Trieste Contemporanea include principalmente monografie e tesi di laurea sul lavoro di Leon Orfini, cataloghi e libri in cui si parla anche di Leon Orfini, libri scritti da lei, principalmente in francese, moltissimi articoli di cui appunto molti scritti da mio fratello. E che quindi diventerà di libero accesso e consultazione per tutti gli appassionati. Sicuramente, lo vogliamo lasciare anche come un fondo aperto a consigli di acquisto o a nuove donazioni. C'era una volta Sappada, il secondo appuntamento estivo della rievocazione storica dell'antica civiltà contadina, ha chiuso il ciclo di eventi di questo mese di agosto, che ha proposto una trentina di appuntamenti. Centinaia di ospiti hanno passeggiato lungo le vie della borgata antica, tra rappresentazioni della fienagione, preparazione di antichi piatti della tradizione montana e la realizzazione degli strumenti per le attività agricole. Più di 50 figuranti, vestiti con i capi originali del secolo scorso, hanno raccontato e fatto vedere antichi mestieri e abitudini delle famiglie contadine, che nei secoli scorsi hanno vissuto a Sappada. Prossimo appuntamento il 24 settembre con Sappamucchi, la festa del rientro delle mucche dall'alpeggio a cura dell'associazione Camosci. Il calendario del Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi propone oggi il concerto Fisarmonica Spasso nel Tempo, di scena a causa delle previsioni meteorologiche avverse al Teatro San Giorgio a Udine. Protagonisti alle 21 saranno due autentiche promesse della fisarmonica, Marco Salvetti e Domenico Raso. Questa era la nostra ultima notizia per questo GR, collaborato in redazione Manuel Bussani, per la parte tecnica Roberto Cavallari, Alex Holland. Da Daniele Leti, Germando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.